paraggi di canale, canale 10, c'è qualcuno in questo canale che ascolta? Fischia, fischia, avanti fischietto, che hai bella voce. E beh, compagnero, tu sei? Attento, compagnero, sei tu? Ok. E beh, cosa stai facendo stasera? Vedi a scaldare il soldatore, aiuto. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Allora, canale 10, 27075 la frequenza, avanti. Allora, canale 10, breco. Breco, breco. Allora, promettete che è in trasmissione. Ciao Luca. Ciao Gianni, buonasera. Buonasera, e allora? Tutto ok? Un profeta da questa parte, com'è? Oh Gianni, ciao, mi hai sentito, dai. Bella, forte e chiara, limpida, recuava. Adesso era un po' che non ti sentivo, infatti la moderatrice non la stavo riconoscendo, dico la verità. Roger, dai. Va bene così, dai. Ascolta, siccome ho sistemato qua un attimino tutte le cose, mi fai un rapportino di radio di segnale? E qua sei 9.30 Radio 5. Bene, dai, funziona tutto bene. Ieri, vabbè, stavo smanettando, ho cambiato le luci allo smitter dell'Uranus, poi come l'ho rimontato mi si è impallato il display, ha giungulato tutto perché sennò ci buttavo tutta la finestra, non so cosa sia successo, non ho fatto niente di anormale, ho solo sostituito la lampadina, sono andato a rimontarlo, poi l'ho lasciato aperto e mi è impazzito il display, adesso lo lascio lì per un paio di giorni, come si calma ogni acqua, un attimino lo riprendo in mano. No, lascialo acceso, magari sono i condensatori che si sono scaricati come a ferro. L'ha fatto anche a me, gli esplichi quello che segna la frequenza. Kappa, sì, vabbè, l'ho lasciato lì aperto e adesso non c'ho pazienza. Appena una giugana lo riprendo, se no faccio danno. No, se lo accendi magari si caricano i condensatori e si riprende come ha fatto il mio ha fatto lo stesso, addirittura non si vedevano più i tre numeri del frequenzimetro, ma l'ha fatto una volta solo, dopo che ha ricaricato non l'ha più fatto. Vabbè, dai, aspetto un attimino, dai. Un capo mi fuma, dai. Quindi aspetto di essere un attimino più sereno, perché se no basta lo flash e tira fu tutto. Ok, dai, vedi tu. Adesso con che apparato stai uscendo? Sempre il Jopix. Il Jopix con lo ZG microfono amplificato. E basta. Esce benissimo, forte, chiaro, limpido, recuaro. Sì, non c'è nient'altro. Cioè, vabbè, lo strumentino è il wattmetro, il misuratore stazionario e basta, non c'è altro. È la cassa esterna. Boh, finito. Ma l'antenna l'hai cambiata o è sempre la bubana? No, l'ho rimessa in sesto perché per l'ennesima volta mi si era piegato il radialino, quello che c'è in punta, e l'ho visto l'altro giorno, mi dava fastidio, cazzo bigiata, barriera, sembrava un amo, sembrava, e quindi l'ho smontata, gli ho fatto un accrocchio e l'ho rimessa in piedi, dai. No, ma già va bene, che noi siamo lì, adesso siamo vicini, io sono via Baldella, quindi ti puoi immaginare. Vabbè, dai, piccolina, al canto suo già se lo fa, dai, sono 7 watt scarsi, no, niente di più, quindi proprio siamo veramente standard. E più o meno sto scendo come con le 6 watt di me, dai. Va bene, si sente bene, dai. Va bene, in città ti ascoltiamo bene, pure non so fuori come va. Ah boh, già sono un giorno che non accendevo, quindi qua ho acceso ieri, perché stavo, ti ripeto, stavo smanettando sull'altro apparecchio e poi ho collegato questo e ho visto che c'era qualcuno ancora, dai, e quindi sono entrato. Ma sta lavorando già? Sì, praticamente quello che sto facendo io è un impegno abbastanza importante, non ne voglio parlare con frequenza. Ah, vabbè, non voglio scendere in particolari, dai. Vabbè, riguarda la famiglia comunque. Va bene, dai, come no, ti faccio una domanda di riserva. Niente, cioè, la cosa mi tiene impegnato praticamente gran parte della giornata, giusto la sera, una boccata d'aria, però praticamente sono full immersion. Vabbè, dai, interessante, è avere lasciato. Vabbè, lasciamo stare anche questo argomento. Claudio, si è sentito? No, negativo, stasera non ho sentito, ieri sì, ieri c'era. Oggi non ho sentito più nulla, ma deve essere all'ascolto, perché lui le radio, conoscendolo, le tiene tutte accese. Infatti siamo qua, buonasera. Meno me. Ciao Claudio. Ciao Gianni. Cosa ha aggiunto le mani? Il profe, non lo tocca. Io l'altra volta, lo stesso, con l'Uranus, l'ho preso, sì, perché le ho tutte provate, adesso sono col capo, mi sono rotto le balle di offrire roba qua in mezzo. E l'ho provato, funziona perfettamente, però c'è una parte del display dove da 27, proprio il 2 e il 7, che sono spenti, si vede il numero, però è spenta. Ha giudito un voto, un amico, abbastanza preparato in materia, ma ecco, non lo toccare, col tempo lo facciamo, perché c'è cioè, cristalli liquidi, se vai a toccarlo ti incasina tutto. Io cosa da giudizio, Nicolai? Vabbè, no, allora, per essere precisi, allora, io mi sono limitato solo ed esclusivamente a cambiare la lampadina, che chiaramente era bruciata, ho spostato lo smitter con delicatezza, non ho toccato nient'altro, chiaramente poi ho tirato fuori le manopoline, le ho messe a bagno con sapone, le ho pulite perché erano un po' sporche. Dopodiché praticamente con la radio aperta ho acceso, la lampadina funzionava correttamente, praticamente il display praticamente era retroilluminato, apparivano tutte le scritte sotto, praticamente senza che comparisse la frequenza, in sostanza non ho toccato assolutamente nulla. Infatti da giumula d'udduto ho detto, se massano già da capo si era potuto, preferisco aspettare il momento propizio. Ok, mentre poi ho smontato il pannello frontale, ho visto praticamente le due lampadine che illuminano il display a cristalli liquidi, che sono alle due estremità, sono due classiche lampadine a incandescenza. Esatto, sì, è così, però lì dove c'è il display si è notato che ci sono quelle fasce bianche, quelle basta che le tocchi è un casino, quelle alimentano i cristalli liquidi ed è un casino. Io infatti non l'ho toccato, l'ho messo da parte, funziona, non me ne ha fatto nulla, tanto non ne voleva nessuno, perché sono vecchie radio e anche sono dei ricordi particolari, e quindi l'ho messo da parte, però non l'ho toccato perché altrimenti è un casino. Vabbè, comunque, quando ci avrai tempo, piano piano se lo fai, vai dubbio. Ma posso essere anche con il Saturi come è stato fermo, capito? Io in gara ho lasciato un periodo che era un po' fermo e non accendevo tutti i giorni, dai. E due numeri dei display sono spariti. Poi come ho fatto a scaldare, come per magia sono ricomparsi, non me l'ha più fatto. E non lo so però se è uguale, non lo so se il display del Galaxy è uguale all'Uranus, al display dell'Uranus già, io adesso non mi ricordo, non vorrei sbagliare. Comunque è un bel complicato essere radio, già è complicato trattarla, a me non piace, è un bellissimo radio, c'è un sacco di canali, un sacco di cose, ma non è una radio che mi attira molto, è abbastanza complicata, l'avevo memorizzata una volta, poi l'ha già attesa, si è azzerata a Duca, devi cambiare, mi ha rotto le balle, così ero profe. Eia, sì, vabbè, per Gianni, no, vabbè, il Galaxy credo che abbia il frequenzimetro a LED, mentre l'Uranus è a cristalli liquidi. Ti ripeto, cioè, mi sono solamente limitato a cambiare la lampadina, ho fatto due saldature veramente semplici, perché poi la lampadina si trova subito, il resto non ho toccato assolutamente nulla, cioè ho sfilato le manopoline dal frontalino per dargli una pulita e poi le ho rifilate. Allora, ho avuto un po' di difficoltà nel mettere quella nel commutatore, nel selettore di banda, quella manopolina ho dovuto fare appena appena un po' di forza in più, non vorrei che infilando la manopolina nel potenziometro praticamente magari ho esercitato troppa pressione o ho causato qualcosa, potrebbe essere quello, Sì, potrebbe essere quello, magari hai spinto dove c'è il potenziometro dell'interno, ha toccato qualcosa, potrebbe essere quello già. Vabbè, dai, quando ho la testa un attimino sgombra da pensamenti vari, la riprende in mano, ma non la giocana, se no mi tiro sulla tapparella e se ho tutto. No, non ci buttare niente, già si mettono a posto le cose, non c'è problema, vai doppio rum. Esagerato, ti perdi per poche cose, poi si riprende, magari se lo tiro un po' attaccato come ti ho detto si riprende. Magari anche la questione di condensatori, quando lo stai molto tempo senza usarli, bisogna mettere al minimo la potenza quando li attacchi, farli andare piano piano, una volta che scaldano poi aumenti piano piano, perché se no se fai tutto in una volta si incasina, lo so già io, esperienze già provate. Ti ripeto, erano tutti e due da parecchio tempo che erano spenti, poi l'altro giorno mi sono deciso, ho visto l'antenna che mi faceva pietà e quindi ieri pomeriggio prima che entrassi ho acceso sia uno che l'altro e mi sono accorto che la lampadina dello smitter dell'Uranus era andata, capito? Tutto qua, è nato tutto da lì, però prima che l'accendessi, da tutto il tempo era che non accendi un'onda, avanti qua. Minimo di un altro per non entrare. Break. One. Avanti break. Buonasera Gianni. Buonasera l'altro Gianni, Claudio, ho sentito e poi non so chi sia, buonasera. Appena rientrato a casa è uscito stamattina a adesso, ma non è che stavo lavorando sino ad adesso, stavo facendo altre cose. Ciao Carlo, mi hai sentito? Dai, adesso rilassati. Adesso sono comodo seduto sulla scrivania, meglio di me non sta nessuno. Si sento del rumore sottofondo, non so se li sentite anche voi. Sto c'è uno, ma non è a che mi fa. Io vi lascio, c'è troppo casino, c'è importante quello che fischia, quello che parla da solo. Ci sentiamo ragazzi, ciao ciao. Ciao ciao Claudio. E io adesso lo ascolto, magari poi quando. Ciao a tutti. Ciao Claudio. ciao Carlo, ben entrato, venga che dove sei giocheri, vabbè. Oh yeah. Va bene, dai. Due passaggi e mi sposto anch'io. Avanti Carlo. E niente, mi sono rientrato. Erano le 3:30, ho fatto un giro. Poi avevo dato una chiave di una macchina con un mio amico, la macchina del 2003, di 2009. Era ferma un sacco di tempo, adesso l'abbiamo rimessa a posto, fatta la revisione, ma la seconda chiave non va perché si era rotto il transponder, quella sorta di interno. E sono andato alla casa della chiave e mi hanno detto che non ci vuole la macchina, se no me l'avrebbero fatto stasera. Il microchip o transponder, come lo chiamano loro, duplicazione più installazione sulla chiave, 70 euro. Lo so che è così, ma poi non ce la fanno a duplicarle tutte, perché quella della Station Wagon a me non ce l'avevano fatta a duplicarle. Ma adesso avranno qualche programmino nuovo, perché mi ha chiesto di che anno era la macchina, che modello era, gli ho fatto vedere il libro più in circolazione e mi ha detto che non ci dovrebbero essere problemi, però lui vuole la macchina anche per provarla, capito lì? Ecco, vabbè, non lo fai andare lì al tuo collega, se lo vazio. No, poverino, non può guidare lui, che è fratturato, tibia, perone, quindi è un mio amico che abita all'Alghero. Ma siccome uno di questi giorni posso trovarlo, lascio lì la mia macchina, mi prendo la sua, rientro a casa lì con quella e così gli faccio il doppione della chiave, capito? Che lui me lo vuole lasciare perché praticamente questa macchina ha 165.000 km e ha quasi 20 anni di vita, il motore nuovo, nuovo, nuovo. E quindi mi ha detto fallo girare perché è rimasta 10 anni ferma la macchina, era senza batteria, senza nulla. E l'abbiamo rimessa a posto dal punto di vista meccanico, capito, fatta la distribuzione, messa a punto, tutto quanto, gomme nuove, freni nuovi, insomma, ci ha speso 1.600 euro per fare tutti quei lavori. Una lucidata, la carrozzeria sembra nuova nuova, cambiato l'antenna, lo stereo, insomma un restyling completo. Adesso sistemiamo il doppione della chiave ed è perfetta. È appassionato, le tiene come, diciamo, come collezione. Sì, esatto, perché lui ne aveva un'altra, capito? E questa ce l'aveva in garage, tutt'altra, c'era la polvere che non ti dico. L'abbiamo portata ad Alghero da una persona che ce l'ha tutta ripulita, capito? Ha voluto 100 euro, ma l'ha pulita proprio di sana pianta, tutto, anche sotto i sedili, ne ha tirato via tutto. Quindi una volta pulita l'abbiamo portata poi in officina, fatta messa a punto, distribuzione, tutte le cose che ti ho detto, dai, non ripetere. E adesso la macchina è a posto, capito? Viaggia e tira anche un bel. E beh, quella macchina è vano. Sì, sì. Io invece la mia, a prendere lì, ho preso un fosso, avevo cambiato tutti i pneumatici nemmeno un mese fa. Praticamente mi ha segnato controllare pressione pneumatici, sono andato al gommista e il gommista mi ha detto che è sicuramente bucata perché le altre gomme sono tutte a 2,3 e questa qua è a 1,5, sicuramente bucata, l'ha tolta, l'ha smontata e invece non era questione di bucata, ma perde dal cerchio, fa delle bollicine ogni secondo, fa una bollicina e niente, mi ha detto che ci vuole, che vuole il pneumatico nuovo perché appena appena rigonfiato all'atto, però io non ne ho messo perché lui voleva cambiarli tutti e due e io non c'ho soldi da regalargli, vado dove ho cambiato le ruote, me ne faccio dare uno e me lo cambio. Infatti no, se no è un casino. Magari sai cosa fai? Ti metti quelle dietro, te le metti davanti e quelle che cambi, che sono uno un pochettino diverso dall'altro, le metti dietro, capito? Così. così ce le hai bilanciate meglio. E infatti farò così. L'avevo appena fatto l'inversione delle ruote per farle consumare bene. A Predarenda non si può più camminare, credimi, caro. Ne scarti uno, di forse ne prendi tre. Ho visto, perché sono i nostri politici locali lì che non capiscono niente. Prima lì c'era il consorzio di Predanieta della zona industriale, è fallito, e prima il consorzio si occupava di tutte le strade di Predanieta perché era area industriale. Col passare del tempo quella è diventata area commerciale e industriale. Tutte le grandi attività commerciali sono lì, da Auchan a Tanit, tutto, lì ci sono McDonald's, ci sono negozi di articoli sportivi, c'è di tutto, di più. E quindi è il comune che, visto che ha dato le licenze per aprire le attività commerciali lì, è il comune che si deve occupare di quelle strade, i nostri politici che promettono metteremo a posto la viabilità. Quella ormai è prolungamento della città di Sassari, area commerciale della città di Sassari, quindi il comune che se ne deve prendere carico, perché quelle strade sono un casino, già le ho viste, sono un casino che non ti dico, tutte a fossi, non ce n'è una buona, qualche rattoppino l'hanno fatto ultimamente, ma fatti ne arrivi, capito? Due rattoppi croci hanno fatto, e boh, il resto della strada, il 90% della strada è tutto fossi lì a Predanieta, e c'è un traffico allucinante, soprattutto in occasione delle grandi feste, quindi il comune si deve vergognare. Sì, perché io ero rimasto che era consorzio di Predanieta, sono rimasto lì, non pensavo che avesse fallito il consorzio, perché avevo pensato, mettono 100 euro a testa e rifanno tutto quanto bene come si deve, sono in tanti. Lo credo, ma ci sono mille attività, ci sono tanti negozi, quindi se ogni attività si quotasse pure, ma lì non è questione di quotarsi, il comune lì incassa un sacco di soldi dalle tasse che mette, capito? Quindi è il comune che ci deve pensare. Adesso il comune, per esempio, ci ha aumentato la Tari, capito? E a partire da gennaio qua ci sono gli cassonetti via Pimentella, in tutto il Monte Alto e via Brunistella, tutta questa zona qua, toglie i cassonetti e mette il porta a porta, poi ci sono palazzi dove ci abitano 20-30 famiglie, io voglio vedere tutti con i fusti giù, capito? Giù ci sarà l'invasione dei fusti ogni sera, te ne rendi conto? È comune in cassa, capito? E spende poco così. Sì, ma poi con quel metodo secondo me è sbagliato, perché se uno pulisce il pesce e non è giornata per buttare il coso umido, non puoi buttarlo e ci devi tenere la puzza in casa, ma stiamo scherzando. Buonasera a tutti, sono entrato a salutare che poi vi devo lasciare perché sono invitato oggi. Hola, funzionari a posto, hola, allora, ok, Kappa, buonasera. Ciao a tutti. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera a te, buonasera, spero che vi sentiate. Ora sta uscendo, sì. Beh, se ti rispondiamo vuol dire che ci sentiamo. Già, andiamo avanti. Dai ragazzi, io devo assentarmi perché devo fare altro. Ciao Antonio, ben entrato. Ciao Carlo, ciao Gianni, ciao Claudio, se sei all'ascolto, dai, ci sentiamo un altro momento, scappo perché ho da fare, ok? Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Gianni, ciao, buon cuore tutti. Ma chi è Gianni? Per sentirti, già ci sentiamo alle prossime, vai Antonio. Cavolo, mi sfugge, chi Gianni sei? Lo profeta? Sta con lo scala sera, ma tardine in varia. Chi ha già chiuso sicuramente? Cappa, già era un giorno che non lo sentivo più. Ora. Tu freddo vai, già, che l'ha fatto. Beh. sentivi perché non stava entrando, non lo sentivo nessuno, non stava entrando, era un anno che non entrava. Sì, sì, anche a me ha detto così Gianni. E vabbè, perché ogni tanto uno si prende una pausa, magari si mette a fare altre cose, altri diversivi, altri problemi, come ce li possiamo avere tutti, chi più e chi meno, e quindi magari tralasci un po' queste cose, poi quando hai un attimo di pazienza ci ritorni sempre se c'è la passione, capito? Purtroppo è così, la radio è sempre stata così, a momenti c'è tanta gente, a momenti ce n'è poca, però dai, adesso già inizia anche un po' l'inverno, si sta più a casa, quindi qualcuno in più penso che entrerà. Ci sei all'ascolto? Ehi, Gianni, sì, ho bicchietti sovramodulati con Antonio. Comunque Antonio sta uscendo bene, qua già mi arriva bene Antonio, se mi sta ascoltando. Vai Gianni. No, anche perché sono appena in bicchietti. Siete sovramodulati, vai Gianni. Tanto passa a me e parli tu. Ho detto, si è messo l'antenna sul tetto Antonio. Siamo rimasti in due, Carlo, adesso entrerà qualcun altro magari, dai. Kappa, ciao Antonio, salutoni, dai, tanto io mi faccio altre quattro chiacchiere con Gianni. E poi stanotte c'è la partita, ma andrò a letto presto, secondo la susa che prende la Juve, Real Madrid, Juventus di Champions alle 21, capito? Quindi cenerò intorno alle 8, mi guardo un pezzettino di partita, poi vado a letto presto, che sto facendo i turni di mattina. Oggi ho fatto la prima mattina di 4, quindi me ne rimangono altre 3. Piano piano è sempre a nenne, vai Gianni. Dai, è meglio la mattina che la notte, Carlo, va. Molto presto entri di mattina. Ciao, ciao a tutti. Ciao Antonio. Ciao, ciao. Allora, oggi sono entrato alle 6 e anche domani entro alle 6, 6.14 e 6.14. Invece dopodomani è il giorno ancora a venire, entro alle 5, 5.13 e 5.13. E poi ho un giorno libero, ho tutta la sera il giorno libero e poi rientro di pomeriggio, capito? Quando poi faccio i pomeriggi abbiamo libero e riposo e poi riprendi di nuovo con le mattine. E la Gemmiglia adesso, ma di notturno c'è sempre chi lo fa. No, no, no, noi non lo facciamo più la notte. Allora, noi facevamo la notte perché avevamo la videosorveglianza, il pattugliamento e la gestione del varco carraio doganale. Ed erano servizi esterni che noi avevamo. Siccome alcuni di noi sono andati in pensione, qualcuno ha dato le dimissioni, loro non vogliono più assumere, quindi abbiamo solo personale stagionale che assumono da aprile fino a tutto ottobre. Dopodiché rimaniamo i soliti e quindi siamo rimasti in 30 dipendenti della sicurezza e non ce la facevamo a coprire servizi esterni. Quindi allora cosa hanno fatto? Hanno dato la gestione esterna a un istituto di vigilanza che fa quei servizi lì di videosorveglianza e pattugliamento e la gestione del varco carraio, e noi non li facciamo più, di conseguenza non facciamo più le notti. Per noi è una grande cosa perché le notti sono una grande rottura di balle, dai, perché devi stare tutta la notte in piedi, poi è vero che c'è lo smontante libero, ma quel giorno che sei smontante sei sfatto, capito? La passi più che a dormire che a goderti il giorno libero, capito, di smontante. E quindi è già da 4 mesi che non facciamo più le notti. Per me è una grande cosa, tanto orari notturni ne facciamo perché dalle 5 quando entriamo, dalle 5 alle 8 del mattino ci pagano il notturno, capito? E poi la sera dopo le 20, dalle 20 alle 24 è tutto notturno e noi facciamo tutte le chiusure la sera quando ci sono gli scontati, finiamo alle 11, a mezzanotte, quindi dalle 20 a mezzanotte è tutto notturno. Quindi abbiamo 3 ore la mattina di notturno e 4 quando facciamo la sera. sempre, poi facciamo molto straordinario quando ci sono i voli in ritardo, per cui alla fine le notti è la manna dal cielo per noi a non farle più, capito già? Io lo vedo, già va bene così, vabbè. Allora è partita da poco, mia figlia è venuta con la macchina, perché abbiamo preso la macchina in nave, e poi la macchina l'ha lasciata da me e ce l'ho in cortile io, e poi è partita con l'aereo che gli conveniva. Eh beh, sì, se non aveva bisogno della macchina, sì, ha fatto bene, sì, capito. E i biglietti se li fai per tempo con Ryanair sono anche convenienti, ancora funziona così. Adesso noi sino al 26, sino ai primi di novembre, più o meno teniamo quasi i voli che avevamo d'estate, però dal 5 novembre in poi, capito, terremo solo i voli della continuità che li fa ITA, Roma Fiumicino e Milano Linate, e poi terremo i voli Ryanair, Pisa, Bergamo, Bologna, Napoli di settimanale e forse un'altra destinazione. E poi non so se Ryanair metterà anche delle rotte anche d'inverno per le città europee, però ancora non si sa niente della stagione invernale, non hanno pubblicato ancora diciamo tutto il programma invernale. Vediamo un po', a te Gianni. Ma Bologna ci sarà sempre? Sì, quelle sono le rotte classiche di Ryanair, capito? Sono collegamenti nazionali e sono sempre pieni quei voli, quindi a Ryanair conviene, quindi conviene. Ci sono già da 20 anni quei voli, li ha sempre tenuti Bologna, Pisa, Bergamo cos'era l'altro, e adesso anche Napoli sta tenendo perché è sempre pieno. È buono, vabbè. No, ma non la riserviva la macchina, doveva girare in Spagna. Adesso oggi è a Granada. È bello, Granada è molto carina. Lì sono andato a vedere uno spettacolo andaluso di danza tradizionale andalusa, no, con i gitani. Ci hanno offerto sangria, di tutto, eravamo seduti in una specie di cortile interno e c'erano proprio queste vestite tradizionali con le gonne, quelle che sollevano, capito, ci hanno stati. I cantanti, i suonatori, i musicisti, lo stesso erano tutti, si vedevano, sono zingari, capito? Ma cavolo, tu devi vedere come ballavano bene, cantavano, uno spettacolo bellissimo, ed era proprio lì, quella zona lì, Granada, e tutto pieno di spettacoli. E lì abbiamo visto anche la città di Ronda, che è bellina, dove c'è fanno il rodeo lì e anche le corride, capito? E lì eravamo rimasti un giorno intero, mi sa, a vedere la corrida. Non so se lì adesso la becca la corrida. Vabbè, comunque. Oggi a Granada, poi domani non so se rimane 2 o 3 giorni a Granada e poi vai in un'altra città che adesso non so dove sia, dove deve andare. Me l'ha detto tutti gli itinerari che ce li ha tutti predisposti dove doveva andare, ma non mi ricordo. È buono, è il sud della Spagna, quella tutta si chiama Andalusia, è una bella zona comunque, è bella, soprattutto se non ci vai d'estate, perché d'estate fa troppo caldo, ci va in questo periodo, va benissimo, è forse il periodo migliore per girare lì l'Andalusia. Bei posti ci sono, mi ha mandato delle foto, sono veramente bei posti. Sì, poi quando viaggi sono sempre belle esperienze, già io ne ho fatto tanti di viaggi in vita mia, già ne ho girato Stati Uniti, Australia un mese intero, Emirati Arabi, già ne ho girato, Tunisia, Marocco, sono stato in Turchia, poi senza considerare poi i viaggi europei che ho fatto, Inghilterra, sono stato in Scozia anche, a Edimburgo, poi siamo andati a vedere il lago di Loch Ness, Inverness, che è la, diciamo, la punta più alta della, della Scozia, molto bella, capito? Scozia, la Scozia è sempre carina, bei locali, e la città di Edimburgo è proprio carinissima, ti diverti, c'è il tour del whisky, poi c'è la visita della città sotterranea, ci sono i sotterranei sotto la città, la vecchia città sotterranea, dove ci sono dei gruppi di attori locali che sono vestiti con i costumi del 600, capito? Tu vai lì e c'è il tour del terrore, ogni tanto ti esce qualcuno, Jack lo squartatore, fanno queste cose qua, no? Ed è carino, infatti è consigliabile solo per gli adulti e non per chi ha bambini piccoli. Poi c'è il castello su Edimburgo, dove se ci vai ad agosto c'è il festival delle bande militari scozzesi, cornamuse a gogo, una cosa fantastica, io c'ero andato a vederle queste cose, me le ricordo sempre, a 6 anni. Sono belle cose, è bello viaggiare perché conosci diversi vivere, eccetera, e poi vedi posti nuovi e non vedi sempre le stesse cose. Il fatto che mi ha mandato Manuela, so benissimo, in mezzo ai monti, sotto ci sono i fiumi, sotto, e passavano su queste passerelle sospese nell'aria che si muovono tutte quante quando passi, poi c'era anche il vento, mi ha mandato il filmato proprio. Cose molto belle, diciamo, avventure che ti rimangono impresse nei ricordi, capite? Non c'è cosa migliore, non ci sono foto, perché quelle, per chi le vive, quelle esperienze, come io mi ricordo tutto di ogni viaggio, capito? I ricordi non muoiono mai, capito? Sono anche meglio delle fotografie, Gianni. Lo credo bene, certo, sono cose che ti rimangono impresse, se ti attirano ti rimangono impresse, certamente. Ma lì è uno spirito libero, gli piacciono queste cose. Tu pensa che gli amici, conoscendolo al compleanno, gli hanno regalato i soldi per andare a buttarsi col paracadute. È andata ad Arbatax e si è buttata da mi pare 5.000 vite. Coraggiosa, coraggiosa, perché per buttarti così devi fare anche il corso, e devi essere anche, non devi avere paura, preparato anche psicologicamente, perché quando sei in alto lì c'hai il paracadute, si apre, c'è quello che ti caga sotto e quindi no, non si butta poi, capito? Ma lì c'aveva l'istruttore insieme a lì che volava a fianco a lì, capito? Ah, è ultimo allora, sì, perché almeno così stai più tranquillo, capito? Poi pian piano se ci fai esperienza, insomma, ti puoi fidare anche senza l'istruttore, però devi avere un po' di lanci alle spalle, capito? Ma a me mi ha mandato, io mi sono spaventato, pensate subito a Pietro Taricone, ma mi ha mandato quel filmato. Mi ha mandato il filmato, io non sapevo nulla, mi ha mandato il filmato mentre lei era al bordo dell'aereo che li stava portando, era sul bordo pronta per lanciarsi, e poi proprio nel momento che si è lanciata, è tutto il video. Perché si attaccano le cose, le telecamerine, capito, sul caschetto, e fa tutte le riprese. Sì, è vero. Ma è figliata, ci sto dicendo che è pazza, gli piacciono queste cose estreme, arrampicata, tutte queste cose qua. Esatto, l'amico che sto aiutando con la macchina a mettergliela a posto, adesso in pensione, è un ex poliziotto, lui ha fatto servizio alla DIA, era un tiratore scelto ed era anche tra i paracadutisti, capito? E faceva parte di quegli squadroni che ci lanciano, capito? Vanno in un sacco di territori a ricercare magari mafiosi o latitanti, e lui di lanci ne ha fatto tanti. Adesso poverino si è ammalato, però è in pensione, più grande di me, ha 63 anni, solo che i poliziotti a 60 anni li mandano in pensione, anche se lui per motivi di salute l'hanno mandato 2 anni prima. E aveva la mamma ad Alghero, ma sono originari del mio paese di Bonorra, capito? E la mamma lo stesso era di adesso è in una struttura e se l'ha portata via il fratello che ha coso a Caserta sotto Napoli, e quindi la mamma è in questa struttura di Caserta dove ci vive l'altro fratello, e lui è rimasto solo qua a Pesolino, quindi quando ha necessità di qualcosa mi manda i messaggi: Cato, quando hai un attimo libero vieni, fai un po' di spesa per favore, quindi vado, gli faccio la spesa. Però già è riconoscente, capito, sempre che fa tanti regali eccetera, e è contento che gli ho messo a posto la macchina. Tornando al discorso dei lanci del paracadute, c'ha tutte le fotografie, lui vestito proprio con le tute della polizia, facendo i lanci col paracadute aperto in alto, e lui veramente già è uno che ne ha fatto tanti di cose del genere, lanci da altezze così di 3, 4, 5 mila metri, e si lanciavano dall'elicottero anche loro, capito? Sì, ci sono quelli che vanno tutti quanti insieme con i cani eccetera a cercare delle case diroccate, i delinquenti, i spacciatori, tutta questa gente qua. Sì, sì, ho capito quali sono. Sì, esatto, esatto, poi finita la via, capito, e poi da lì faceva altri servizi, finché poi pian piano se ne è andato in pensione. Adesso è già in pensione da 5 anni, capito, però c'è chi se la gode la pensione, invece ci sono quelli che si ammalano, lui c'ha problemi con la schiena, l'hanno operato alla schiena, e da allora è sempre buttato a letto, quando sta in piedi gli fa male, perché lui si è appesantito molto. Fuma, beve, capito, manigala, non fa esercizio fisico e quindi pesa 130 kg adesso. Io glielo ho detto, se ti vuoi rimettere in sesto devi mollare l'alcol che è molto calorico e ti fa ingrassare, tutto quello che bevi lo accumuli, quello che mangi lo accumuli e quello che elimini è pochissimo, poco e niente. Quindi il tuo corpo si è talmente appesantito che la schiena ti fa male per quello, tu stai sempre a letto, ho detto non esci mai. Adesso gli ho messo a posto la macchina per vedere se lo stimolo un pochettino, e mi ha detto se riesce prima di Natale, se riesce a riguidare, che piano piano si imbarca da Golfo Aranci e che se ne va a Livorno, poi lui abita dalle parti di Firenze verso Barbellino del Mugello, capito, c'è una casa anche lì, e ha detto che se ne va un po' lì, che si vuole fare rivedere la schiena, si vuole mettere un pochettino in sesto, e quando sarà meglio ritornerà ad Alghero, e che ha detto se mi mettono in sesto ritorno ad Alghero, non me ne vado più da Alghero, rimango lì, capito. E quindi niente, ogni tanto ci sentiamo, ci vado a trovarlo qualche volta, una volta alla settimana circa ci passo, capito, tutto lì. E lui era, prima faceva vita spericolata, adesso è sempre buttato a letto già, così è la vita, quindi meglio godersela quando le puoi fare certe cose e divertirti. Ma quello già è vero, ma sono nulla e cambia la vita. Lui pensa che non riesce a camminare, cose del genere, ma lui stando fermo appunto si è ingrossato per quello, perché non fa movimento. Dovrebbe avere qualche cosa che lo sprona, tipo un cane o una cosa per uscire, capito? Lo sprona ad uscire e lo fa camminare. Ehi, HK. Bene Mela, io ho visto che sono le 19:23 Gianni, adesso vado a prepararmi un po' qualcosa per cena, e te l'ho detto, 20:30 mi siedo a vedere un po' di notizie, poi mi guardo un pezzo di partita, se vedo la mala parata spengo tutto e me ne vado a dormire, perché domani mi suona presto la sveglia, dai. E non so se c'è qualcuno ancora in ascolto, comunque ritenetevi tutti salutati. Gianni, a te il microfono, dai, per i salutoni, e poi ci risentiamo questi pomeriggi sicuramente. Va bene Carlo, dai, buona carica quando la fai, è stato un piacere, quando vuoi rientra, non c'è problema, saluto anche tutti gli ascoltori, e niente Claudio, se ci sia l'ascolto, e poi tutti gli altri che ascoltano, vai, ciao a tutti. Scusa già, un'ultima cosa ti volevo chiedere, ma il cane ce l'hai ancora? Lo porti ancora a farsi il giretto di sera? Sì, ce l'ho, è qua vicino a me, adesso andiamo, tra poco. Ah, bene, bene, allora dai, c'è la compagnia, sì. E io me lo prenderò forse uno quando finisco di lavorare, che non ho più l'impillizzo dei turni. Vabbò, Gianni, salutoni, dai, buona passeggiata allora, se esci col cane. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao Carlo, ci sentiamo, ciao. Buonasera. C'è qualcuno? CQ10? Ora, attenzione 12, c'è qualcuno? Ora, attenzione 10. Oi, ciccia! Ciccia! Attento, ciccia! Ciccia!